in primo piano. Eccoci qui con la lettura dei giornali, buongiorno a tutti. Come ha detto Alessandro poco fa, ancora il terremoto in Abruzzo a dominare le prime pagine e molte delle pagine interne dei giornali di questa mattina, senza eccezioni. L'attenzione oggi si concentra sulla scossa di terremoto che è arrivata ieri sera, ha fatto di nuovo temere molto, si concentra sui salvataggi, due ragazze sono state estratte vive, come sapete, dalle macerie dopo 42 ore, sulla ricostruzione e sugli aiuti offerti dagli Stati Uniti all'Italia. Vediamo adesso i titoli principali, cominciamo dal Corriere della Sera: terrore per una nuova scossa, L'Aquila, altri crolli, i morti salgono a 235, si scava ancora, più di 25.000 sfollati. Alle 19.42 di ieri un altro violento terremoto, 5,3 Richter, torna la paura, cade la cupola della Basilica del capoluogo. C'è la foto, una foto grandissima anche oggi sul Corriere, con due bambini e un signore anziano, molto bella. A centro pagina Berlusconi, Obama ci aiuterà a ricostruire le chiese colpite, il Premier e la gara di solidarietà dall'estero. Il taglio basso del Corriere della Sera invece è dedicato a una notizia di cronaca che troveremo poi anche su altri giornali: clochard ucciso, due agenti in cella, Milano, lo avrebbero pestato a morte, le prove da una telecamera. La Repubblica, nuove scosse, paure senza fine, L'Aquila, ragazza estratta viva dopo 42 ore, inchiesta sulle norme antisismiche violate. Ieri sera il terremoto avvertito anche a Roma, le vittime salgono a 235, crolla la cupola della Basilica, Berlusconi, accetto gli aiuti della Casa Bianca. A centropagina, qui invece una notizia economica: cassintegrati record a marzo, più 925%, il Fondo Monetario Internazionale, 4.000 miliardi di titoli tossici, giù le borse. E anche qui il taglio basso è dedicato alla stessa notizia di cronaca: senza tetto ucciso da due agenti, Milano, arrestate guardie della Polfer, il clochard era stato picchiato a morte in stazione. La Stampa, la terra trema ancora, forte scossa ieri sera alle 19.42, nuovi crolli e panico in Abruzzo. I morti salgono a 228, salve 150 persone, ragazza trovata viva dopo 42 ore. Berlusconi, continuate a scavare. Il Sole 24 Ore, il titolo di apertura è dedicato al terremoto, ai sindaci primo via per la ricostruzione, ordinanza per censire i danni e gestire i fondi. Il Premier verrà tutti i giorni, nuove scosse, 235 morti. Ma con grande evidenza è richiamata anche un'altra notizia arrivata ieri: vuota la lista nera dei paradisi fiscali, negoziati USA-Svizzera sul segreto bancario, Fondo Monetario Internazionale, 4.000 miliardi di dollari di titoli tossici. E anche la cassa integrazione, che abbiamo già visto su un altro giornale, la cassa integrazione cresce del 292% a marzo, nei primi tre mesi 750.000 domande di disoccupazione, più 45%. Il Messaggero, la terra trema ancora, coraggio Abruzzo, le vittime salgono a 229, qui il dato evidentemente non è aggiornatissimo, lotta incessante dei soccorsi, 150 estratti vivi, ragazza salva dopo 42 ore. Qui subito sotto il titolo di apertura c'è un piccolo intervento di Sergio Marchionne, l'amministratore delegato della Fiat, che leggiamo subito. Il titolo è: qui ho imparato le cose più importanti, sono certo che sapremo rialzarci. Per quanto lontano ti porti la vita, scrive Marchionne, rimangono dei punti fermi importanti. Per me l'Abruzzo è sempre stato uno di questi, perché è la mia terra. Vedere questa regione così profondamente ferita fa male. Vorrei che arrivassero la mia vicinanza e il mio affetto a tutti coloro che si trovano a dover affrontare una situazione tanto drammatica. Non è la prima volta, purtroppo, che la natura costringe gli abruzzesi a prove difficili, ma hanno sempre dimostrato di saper reagire con forza e con grande dignità. È gente tenace e determinata. Nulla potrà mai intaccare i valori sani di questa terra. Penso al senso del lavoro, all'orgoglio di fare le cose e farle bene. Penso al rispetto per gli altri, alla generosità nei momenti duri. Queste sono le qualità che hanno permesso agli abruzzesi di trasformare una regione. A centropagina sul Messaggero invece la vicenda degli aiuti dall'estero: Berlusconi, Obama mi ha chiamato, sì ai fondi USA per chiese e beni artistici, il Cavaliere di nuovo all'Aquila, ricostruzione in tempi certi. Il Giornale, dopo l'urlo l'orgoglio, sale il numero dei morti, sono oltre 230, ieri alle 19.42 nuova violenta scossa. Libero, questo è un titolo polemico, poi leggeremo anche l'editoriale di Feltri. Obama si tenga all'elemosina, gli USA pronti ad aiutare l'Abruzzo, offrono $50,000, il prezzo di un'auto di media cilindrata. Madornale Gaff, poi viene corretta, che dice com'è ridotto l'ex impero. L'Avvenire, il demone non dà tregua. Ieri sera una nuova violenta scossa, ancora crolli all'Aquila, il sisma avvertito alle 19.42 anche a Roma e in zone del centro-sud. Si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti, salite per ora 235 le vittime. L'Unità, appello dell'Unità, 460 milioni per l'Abruzzo, questo è il titolo di apertura, e poi nel fascione rosso che caratterizza la prima pagina viene richiamata una frase di Silvio Berlusconi pronunciata ieri all'Aquila. Andate sulla costa, è Pasqua, prendetevi un periodo che paghiamo noi. State tranquilli, noi facciamo l'inventario delle case danneggiate e voi vi spostate sulla costa. Sarete serviti e riveriti. Bambini, dite alla mamma di portarvi al mare. Il Riformista, l'ospedale scandalo, il titolo di apertura del giornale si concentra sulla vicenda dell'ospedale finito 10 anni fa e già inagibile. Liberazione, in cerca di protezione, aiuti che ritardano, associazioni volontarie pronte ad operare non trovano il coordinamento della protezione civile, la protesta della CGIL abruzzese. Il Manifesto, il vuoto e la paura. Questo è il titolo di apertura. Una nuova forte scossa semina la paura in Abruzzo, 228 morti accertati, 25.000 senza casa. La procura apre un'inchiesta per disastro colposo. Il Giorno, il sorriso e l'incubo. L'ultimo miracolo dei soccorritori, la riminese Eleonora estratta viva dopo 42 ore. Infine Il Secolo XIX, le lacrime e la paura. L'Italia accetta gli aiuti dal mondo. Questi sono i titoli dei principali giornali. Adesso cominciamo ad approfondire qualche editoriale e qualche articolo nelle pagine interne. Cominciamo ancora dal Corriere della Sera con l'editoriale di Pierluigi Battista che si intitola La lezione abruzzese. C'è una lezione abruzzese da segnalare. L'Italia politica sta faticosamente imparando a distinguere i compiti fondamentali in cui unirsi dai temi, non meno importanti, in cui è democraticamente vitale dividersi. La maggioranza e l'opposizione stanno recitando un ruolo inedito. Hanno capito, tra le macerie e le innumerevoli vittime dell'Abruzzo, che sulle emergenze nazionali non deve avere spazio l'isteria di uno scontro primitivo. Il governo si muove con sollecitudine, ma non chiude le porte al sostegno dell'opposizione. Il PD non usa propagandisticamente il disastro e partecipa fattivamente ai soccorsi. Nelle stesse ore, su un tema diverso come la sicurezza e la proposta delle ronde di volontari, maggioranza e opposizione si combattono invece a viso aperto. La tragedia rinsalda l'unità nazionale, ma la politica non va in letargo, rivendica quanto c'è di sano nel conflitto democratico. Quindi la lettura dell'editoriale di Battista è politica, legge in chiave politica la vicenda del terremoto. E sulla stessa linea è l'intervista che fa il Corriere della Sera con Francesco Verderami al Presidente del Senato Schifani. L'intervista è a pagina 15 del Corriere della Sera, il titolo è E Schifani, la solidarietà tra forze politiche sia banco di prova per riforme insieme. Che cosa dice Schifani? Perché tornare di nuovo a Guelfi e Ghibellini? La domanda è un gioco retorico. Serve a Renato Schifani per appellarsi alle forze di maggioranza e opposizione. È il tentativo di scongiurare il triste pericolo di un ritorno alla normalità, dopo la prova di solidarietà, compostezza e responsabilità offerta in questi drammatici giorni dal Paese e anche dalla sua classe politica. E siccome la tragedia dell'Abruzzo ha fatto riemergere valori condivisi, sarebbe un grave errore non sfruttare l'occasione per far partire un processo bipartisan di riforme. Ecco, dice Verderami, come dovrebbe incarnarsi per il Presidente del Senato lo spirito di solidarietà nazionale emerso in Parlamento dopo il terremoto. Non si tratta di confondere i ruoli, continua la chiacchierata con Schifani, di prefigurare assetti di governo diversi da quelli attuali, scenari inesistenti sui quali la seconda carica dello Stato nemmeno si attarda. Il punto nel gioco maggioranza opposizione è trovare un codice che rompa lo schema Guelfi-Ghibellini. E mentre osserva da lontano l'opera dei soccorritori, Schifani, scrive Verderame, segue da vicino i politici ed elogia tutti. Il governo e in particolare il Presidente del Consiglio stanno agendo con efficacia, dice il Presidente del Senato. Le rassicurazioni fatte ieri da Silvio Berlusconi a chi ha perso tutto, quel mi assumo io la responsabilità per la ricostruzione in tempi rapidi e certi, hanno per Schifani un significato chiaro. Il Premier ha deciso di fare dell'Abruzzo un'altra campagna. Per lui l'Aquila è una nuova Napoli, sta affrontando l'emergenza terremoto come ha affrontato l'emergenza rifiuti. È in queste occasioni che dà il meglio di sé. Meno scontato, e proprio per questo più importante, è l'apprezzamento per la maturità mostrata da Dario Franceschini. Il segretario del Partito Democratico si sta comportando in maniera leale verso il governo, lo conosco da tanti anni, è un lottatore e un politico di rango, lo sta dimostrando in questo passaggio terribile per il Paese e spero, anzi credo, che lo dimostrerà anche in altri passaggi istituzionali. Quanto a Pier Ferdinando Casini, che ha dato carta bianca a Palazzo Chigi sull'Abruzzo, non è nuovo a questa linea di grande moderazione. È leader di un'opposizione sensibile e non pregiudiziale. Certo, ognuno fa la propria parte, ma su alcuni temi, come la riforma della giustizia, ha detto di considerarsi già seduto al tavolo del dialogo. Sono queste considerazioni che inducono il Presidente del Senato, conclude l'articolo di Verderami, a confidare nella svolta. È l'atteggiamento comune di grande responsabilità che mi spinge a essere ottimista, a dire che si può riannodare quel filo prezioso spezzato subito dopo le elezioni. Prendo Repubblica, dove c'è a pagina 8 e 9 un ampio servizio sul Giappone. Perché? Perché il Giappone è un paese dove i terremoti sono quasi una consuetudine e però non provocano tutti i danni che provocano da noi. Il titolo è «Così il Giappone ha vinto la sfida, acciaio elastico e cuscinetti antisismici». Ma l'ONU ci bacchetta, siete in ritardo, eppure le leggi ci sono. Un terremoto di grado 7, scrive Repubblica nell'articolo di Elena Dusi, un terremoto di grado 7 nell'Appennino meridionale provocherebbe tra i 5 e gli 11.000 morti, in Giappone 50. Un sisma ancora più violento, intensità 7,5 in Calabria, causerebbe tra le 15 e le 32.000 vittime, appena 400 in una città densamente popolata come Tokyo. A fare la stima dei possibili danni di un identico sisma in Italia o in Giappone è uno studio di Alessandro Martelli, che insegna costruzioni in zona sismica all'Università di Ferrara, dirige la sezione Prevenzione Rischi Naturali all'Enea ed è presidente dell'Associazione Nazionale di Ingegneria Sismica. In Giappone un terremoto come quello dell'Aquila non sarebbe neanche finito sul giornale, dice, e invece da noi l'applicazione della legge che impone criteri antisismici per gli edifici di nuova costruzione viene rimandata in continuazione. Questo è uno dei motivi per cui un terremoto si trasforma in una tragedia. Vediamo invece adesso su Libero questa polemica con Obama e con gli aiuti promessi. È trattata dall'editoriale di Vittorio Feltri. La bolletta rende tanto meschini che perfino gli Stati Uniti, normalmente brillanti, ieri hanno avuto un cedimento alla tirchieria da lasciarci allibiti. Sentite che roba. Dall'America, recitava un dispaccio d'agenzia, sono in arrivo $50.000 per la prima emergenza in Abruzzo. L'abbiamo letto 3 o 4 volte perché non credevamo ai nostri occhi. $50.000, praticamente un'elemosina che umilia sia chi la riceve sia chi la dà, l'equivalente del prezzo di un'auto di media cilindrata. Offesi da quella che consideriamo una provocazione, ci occupiamo d'altro, covando il proposito di dire a Obama quanto si merita. Ma ecco un'altra agenzia, l'Albania, piccola e in condizioni economiche disastrate, offre €50.000, cioè più degli USA. Evidentemente si è ribaltato il globo. E apprezziamo la dichiarazione del Premier. Grazie, ma non abbiamo bisogno della carità per affrontare la catastrofe. Ci arrangiamo con le nostre forze e con i fondi europei. Una fiammata d'orgoglio, scrive ancora Feltri, che rinfranca l'anima e raddrizza la schiena. Poi, per fortuna, nel corso del pomeriggio giungono chiarimenti che ristabiliscono le misure della decenza. Il presidente abbronzato, scrive Feltri, aggiusta il tiro e mette una toppa alla gaffe dei $50.000 che davano a Obama il diritto al ritiro di un buon tricolore per essere mandato in mantinente al diavolo, per non dir di peggio. Questo è l'editoriale di Vittorio Feltri. Invece prendo sul Sole 24 Ore un altro aspetto di questa vicenda, cioè quello della protezione civile, dei soccorsi e della ricostruzione. Ne parla l'editoriale di Giorgio Santilli sulla prima pagina del Sole, Protezione civile, immagine vera del paese, questo è il titolo. 1.300.000 volontari registrati da 2.500 associazioni con 60.000 unità, sempre pronte per rispondere alla chiamata operativa. 700 dipendenti in organico, ma anche il coordinamento con pieni poteri di tutti i corpi dello Stato nelle situazioni di emergenza. Un bilancio ordinario di 1,6 miliardi, di cui solo l'8% è effettivamente manovrabile, ma anche contributi straordinari come quelli per la gestione del G8 della Maddalena. Sono alcuni dei numeri della holding Protezione Civile, modello Bertolaso, alla prova in questi giorni con la prima vera sfida di una catastrofe naturale di grandi dimensioni, assai diversa per scala dai rifiuti campani o dalla piena del Tevere. Questo è l'attacco, non mancano le polemiche, inevitabili in tragedie di queste dimensioni, prosegue Santilli sul Sole 24 Ore, come quelle sui ritardi nell'organizzazione delle tendopoli, o sulla prevedibilità del terremoto aquilano, ma anche queste polemiche sembrano destinate a lasciare il campo alla solida operosità della macchina messa in piedi da Guido Bertolaso. E resto a questo punto sul Sole 24 Ore per vedere un pochino più in dettaglio le altre due notizie di carattere economico che ci sono sui giornali oggi. Vuota la lista nera dei paradisi fiscali. Che cosa scrive il Sole? Primi sviluppi del G20 di Londra. L'OCSE ha annunciato ieri a Parigi che non vi è più alcun paese sulla lista nera dei paradisi fiscali. In pochi giorni Uruguay, Costa Rica, Filippine e Malaysia sono stati depennati dalla lista nera. Ma non basta per arginare la crisi. Sempre ieri il Fondo Monetario Internazionale ha rivelato che sui libri di banche e operatori finanziari ci sono ancora 4.000 miliardi di dollari di titoli tossici. Trovate poi all'interno tutti gli approfondimenti. Lo stesso leggiamo sempre sul Sole della cassa integrazione. Continua a crescere il ricorso alla cassa integrazione. A marzo la gestione ordinaria è aumentata del 925% e quella straordinaria del 102% rispetto a un anno prima, con un balzo complessivo del 292%. Nel primo trimestre 750.000 domande di sussidi di disoccupazione, più 45% sul 2008. Anche in questo caso trovate poi all'interno l'articolo. A questo punto cambiamo argomento completamente e passiamo a qualche notizia di cronaca per gli ultimi minuti della rassegna. Prendo il Messaggero, che richiama in prima pagina una notizia sulla scuola che interesserà moltissime persone, ce l'hanno poi anche tutti gli altri giornali all'interno. Il titolo è Maturità basta la media del 6, ammessi anche con insufficienze purché non in condotta. Che cosa è cambiato? Niente maturità con il 5 in condotta, ma norme più morbide per accedere all'esame in merito alla media voti. Basta la media del 6. Sono queste le direttive contenute nell'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione decise ieri. Escludendo il caso del 5 in condotta, dunque, si potrà accedere alla maturità anche con qualche insufficienza. A oggi resta valido il decreto ministeriale del 2007 con il quale l'allora ministro Giuseppe Fioroni introdusse per quest'anno l'obbligo della media del 6 per l'ammissione all'esame di Stato. Questa notizia farà felici molti ragazzi che si apprestano a fare la maturità. Riprendo a questo punto Repubblica e vi leggo qualcosa di questa notizia di cronaca drammatica del clochard ucciso dai poliziotti. A pagina 19 di Repubblica, quegli agenti pestarono a morte un clochard. Milano, in manette due polfer, la difesa, sono stati aggrediti con un coltellino. Era stata da subito una morte sospetta. Giuseppe Turrisi, 58 anni, che viveva tra il dormitorio di Viale Ortles e la centrale, lo scorso 6 settembre è arrivato negli uffici del posto di polizia della Polfer, accompagnato da due agenti. Ne è uscito poco dopo in barella per essere ricoverato in ospedale, dove è arrivato cadavere. Una settimana fa, dopo mesi di indagine, grazie alle verifiche del PM Isidoro Palma, che ha disposto l'autopsia dopo il decesso, la procura ha ricostruito seguito la dinamica dei fatti e ha chiesto l'arresto, convalidato dal GIP Marina Zelante, dei due agenti della Polfer. Le accuse sono di omicidio volontario, col dolo eventuale e falso, mentre un loro superiore è indagato per favoreggiamento. Secondo l'accusa, avrebbero pestato a morte Turrisi, che aveva il corpo e il volto coperto da ecchimosi, frattura due costole, una scomposta, che aveva perforato la milza, provocando un'emorragia interna. Ecco, vediamo invece adesso, infine, dal Corriere della Sera, due parole sull'ultima cosa che vi cito. Obama ha fatto una visita sorpresa in Iraq, ne parla il Corriere della Sera, pagina 20, visita sorpresa, il presidente conferma il ritiro entro il 2011, Obama agli iracheni, adesso tocca a voi, accoglienza euforica delle truppe USA. La guerra fu un errore, ma bisogna uscirne in modo cauto, ha detto ai giovani di Istanbul. Dal Bosforo a Baghdad, dalla promessa di un nuovo dialogo con l'Islam a uno dei fronti di guerra contro il terrorismo islamico. Con una deviazione a sorpresa, tenuta per sicurezza segreta fino all'ultimo momento, Barack Obama è atterrato ieri pomeriggio nella capitale irachena. E con questo direi che possiamo concludere per oggi la rassegna stampa.